sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Certo, ecco una certa apprensione questa mattina, inizio questa trasmissione a pochi metri dal Tevere in via di esondazione. Per precauzione ci siamo portati gli stivaloni di gomma e già gli ascoltatori veneti mi dicono che sarà mai voi romani, a Venezia siamo abituati, prendete gli stivali alti, prendete le passerelle. Qualcun altro mi dice metti i sacchetti lungo gli argini. Vabbè, adesso andrò a cercare dove si comprano i sacchetti di sabbia da portare lungo gli argini del Tevere. Comunque sì, il Tevere è bruttino, l'ho visto stamattina, bello giallognolo. Dalle parti dove siamo noi, al centro di Roma, pare che ancora ci sia qualche metro, ma a Ponte Milvio si vede proprio lì, sul pelo dei lucchetti di Moccia, che probabilmente si arrugginiranno questa mattina, e questo forse sarà la minore delle iatture. Beh, approfittando di questa giornata in cui ce ne stiamo noi romani chiusi in casa a guardare con tremore il crescere del Tevere, vorrei rilanciare una campagna umanistica. Vorrei riportare giustizia nei confronti di un concetto che a me negli anni è andato corrompendosi rispetto alla sua radice primaria. Il concetto è che sempre più adulti oggi si fanno portatori di un pensiero totalmente dissacrante e del tutto falso nei confronti di una delle poche verità su cui sono incardinate le certezze della nostra fanciullezza. E poi oggi non vi lamentate se i ragazzi vanno in internet, usano i telefonini, si mandano gli sms e via dicendo. Tutto dipende, perché tutto procede dal fatto che gli adulti ormai sono convinti erroneamente che Babbo Natale non esista più. Beh, io questa mattina vorrei, se possibile, riportare verità e giustizia sul concetto della reale esistenza di Babbo Natale, perché ci sembra che sia un momento di giusto e saggio passaggio all'età adulta, all'età della ragione, quando noi finalmente decidiamo che i regali che in questo periodo sogniamo che ci arrivino, che poi ci arrivano, che poi non ci arrivano, che poi non sono mai quelli che vogliamo, che poi in momenti di congiuntura come questi sono i tristerrimi regali utili, quindi troveremo maglioncini, calzerottini e scarpettine, camicine sotto l'albo di Natale, non ce ne importa assolutamente nulla, che ci regalino cose che ci servono veramente. Noi vogliamo regali futili, regali folli, regali che ci facciano uscire dalla realtà e dal mondo. Beh, tutto questo chi lo fa, chi lo porta, chi lo produce, se non Babbo Natale? Non mi interessa che storicamente in un certo periodo una fabbrica di bevande marroncine abbia deciso di dare una consistenza iconografica al personaggio che era caro alle tradizioni popolari, e per alcuni era San Nicola, e che veniva da una città turca, Mira, per altri San Santa Lucia, per altro Gesù Bambino. Io sono nato con i regali portati da Gesù Bambino, poi man mano crescevo Gesù Bambino è diventato Babbo Natale, e poi Babbo Natale è lentamente sfumato in una sorta di terribile accettazione del fatto che i regali li portassero i genitori. Ma potete mai pensare che dei genitori abbiano tempo, voglia e consistenza economica per acquistare i regali? I regali è chiaro che li porta Babbo Natale. Avanti, avanti Sara, l'acqua l'hai avuta. Deve volare più veloce della luce per raggiungere tutte le case. E allora? E che per portare tanti regali deve avere una slitta più grande di un transatlantico. Oh, tuo fratello ha detto così. Beh, ti prendeva in giro, lo sa che Babbo Natale c'è. Ha detto che non è sicuro che Babbo Natale esiste. Certo che esiste, esiste come esiste il Natale. Ma non passerà finché non dormirai come un angioletto, signorina. Babbo Natale sarà qui in un batter d'occhio. Perciò adesso dormi. Polar Express, un film che a casa mia ogni anno si riguarda sotto Natale, è proprio la storia di una sorta di viaggio del risveglio di un bambino moderno che ha il dubbio che la terribile iattura del mondo moderno, la caduta della certezza, la perdita di ogni fede nei confronti dell'esistenza di Babbo Natale. E per riaffermare la propria esistenza, Babbo Natale lo invita sul Polar Express, treno fantastico che lo porta al Polo Nord, che è la dimora di Babbo Natale, dove realmente esistono quelle figure che abbiamo sempre immaginato, abbiamo sempre sognato, abbiamo visto quando ancora la nostra mente era sgombra dai pregiudizi dell'età adulta, i folletti che creano e costruiscono i regali, quel meraviglioso mondo in cui le persone, gli esseri che lo animano sono solamente dedicati, e mi sembra una delle missioni più fantastiche della vita di un essere vivente, alla felicità dei bambini. Noi smettiamo di essere bambini quando smettiamo di essere felici, smettiamo di essere felici quando smettiamo di credere a Babbo Natale. Ebbene, tu vieni? Dove? Ma come dove? Al Polo Nord! Questo è il Polar Express! Al Polo Nord. Reggi, per favore. Grazie. Questo sei tu? Sì. Bene, qui dice niente foto con un Babbo Natale dei grandi magazzini, niente lettera, e hai fatto lasciare latte e biscotti per Babbo Natale a tua sorella. Ho idea che questo sia il tuo anno decisivo, se fossi in te. Salirei senza indugio a bordo. Avanti, avanti, avanti. Ho un orario da rispettare qui. Oh. 800 24 00 24. Chi come me ha la certezza assoluta che continui ad esistere, se è sempre esistito, se è esistito ancora prima che se lo inventasse la Coca-Cola Babbo Natale, che Babbo Natale comunque è un momento indispensabile nella nostra cultura occidentale, nella nostra maniera di percepire l'esistenza, nel nostro passaggio fra una spensierata, folle e meravigliosa fanciullezza e un'età adulta, che non è detto che non possa essere via via resa fertile da quello spirito di follia, di credulità, di inconsistenza della prova certa e materiale che affligge l'età adulta, e quindi possa una volta tanto credere a Babbo Natale. 800 24 00 24, portatemi delle prove certe e concrete che esista Babbo Natale, così riusciremo questa mattina a convincere gli increduli che in realtà Babbo Natale esiste davvero. Grazie. Me, scegli me Babbo Natale. Shh, ma che fai, smettila. Scegli me, io voglio il primo dono. Giovanotto, pazienza e un pizzico di umiltà ti farebbe molto bene. Sì, signore. E tu, signorina, una ragazza decisa, piena di sicurezza e spirito. Spirito natalizio. Continua così. Grazie. E Billy? Ti chiami Billy? Ti sei fatto dei nuovi amici? Sì, signore, così infatti. Sei fortunato. L'amicizia è il dono più grande. E a proposito di doni, scegliamo questo ragazzo. Mi cominciano a scrivere alcuni ascoltatori abbastanza perplessi, ma è chiaro che non siamo pronti a riattingere al patrimonio immenso della nostra fede fanciullesca sui miti che hanno reso indimenticabili gli anni di quando eravamo bambini. Mi chiede Hermes, dice, ma che tipo di operazione cifrata è in corso? Qual è il segreto? Qual è il doppio salto mortale che si farà poi nell'affermare l'esistenza di Babbo Natale? Francesca Romana mi dice, certo che esiste, ora si è messo a svaligiare appartamenti. Dico sul serio, non avete visto come si arrampica sui balconi? E inconsapevolmente mette il dito nella piaga. Perché Babbo Natale non esiste più nell'immaginario collettivo? Perché di Babbo Natale si è impossessato chi non ha mai creduto in Babbo Natale, quindi i cinesi. Oggi tutta l'iconografia, la rappresentazione concreta, l'immaginario di Babbo Natale è rappresentato da cinesi, che lo costruiscono come costruirebbero qualunque altro oggetto, riproducendo elementi forti dell'immaginario del paese che vogliono commercialmente colonizzare. In questo caso siamo noi. I Babbo Natali da qualche anno a questa parte sono tutti fatti dai cinesi. Alcuni sono molto belli, bellissimi quei Babbo Natali gonfiabili, alti 2 metri, probabilmente servono soltanto per richiamare l'attenzione alle vetrine di negozi, ma averne uno in casa sarebbe meraviglioso, e gonfiarlo nel momento fatidico sotto l'albero, nel momento del deposito dei regali. Altri Babbo Natali sono fatti in maniera più sommaria, di tutte le forme, di tutte le fattezze, per quei tipici regalini schifiltosi che si fanno tanto per far capire a qualcuno se è ricordati di lui. Sono settimane che le persone vanno in giro per negozi all'acquisto di piccole cose scellerate, inutili. Una caccoliera ben confezionata può essere un regalo che permette di far ricordare a un amico che anche per lui è giusto che ci sia Natale. Beh, invece, tra questi oggetti che si vendono, quello che ha più preso il nostro immaginario, tanto da riempirne tutte le contrade, dai centri cittadini ai paesi più sperduti, alle province più tristi, alle più buie strade delle nostre più buie città italiane, è il Babbo Natale arrampicatore. Il Babbo Natale che si arrampica improvvisamente si è sovrapposto a tutti gli immaginari di Babbo Natale. Perché? Perché il Babbo Natale in cui noi crediamo, abbiamo sempre creduto, è il Babbo Natale che si manifesta soltanto una notte all'anno. Il resto del tempo sta nel suo luogo lontano, iperboreo, immaginario, nel Polo Nord, e quindi non possiamo vederlo. Il Babbo Natale arrampicatore invece comincia più o meno verso metà ottobre ad apparire come una sorta di funesto presagio alle finestre delle nostre case e rimane lì attaccato fino a primavera inoltrata, fino a scolorirsi, fino a diventare deposito di immondizia organica di uccelli, fino ad essere flagellato alle intemperie. Ma il nostro Babbo Natale non può essere così reso come qualcosa che assomiglia a uno dei tanti manifesti pubblicitari. E proprio per ridare esistenza e ridare forza al Babbo Natale a cui abbiamo sempre creduto, abbiamo chiamato questa mattina un esperto restauratore dell'immaginario di Babbo Natale. Lino Domizzi, buongiorno. Buongiorno. Lei è un istruttore di Babbo Natale? Io sono un istruttore di Babbo Natale, il mastro Babbo Natale. Cioè lei insegna agli esseri umani come fare gli assistenti di Babbo Natale, anche perché Babbo Natale è uno inimitabile e non può essere naturalmente moltiplicato, ma ognuno di noi nel suo piccolo comunque può rappresentare Babbo Natale. Esatto. È un mestiere che si è perduto oggi con i Babbo Natali cinesi, e non voglio sembrare schifosamente xenofobo, ma io lanciai anni fa una campagna per la distruzione fisica del Babbo Natale arrampicatore, ebbi anche fastidi per questo, istigai in tutte le maniere a staccarli, a prenderli, a distruggerli, poi mi dissero che magari era un attentato alla proprietà di altre persone, però simbolicamente io porterei al massacro, raderei al suolo, attaccherei con lanciafiamme i Babbo Natale cinesi arrampicatori. Hai perfettamente ragione, non si possono solo attaccare con lanciafiamme perché sono di materiale ignifugo, te lo preciso. Beh, quello già rassicura. Già rassicura un pochino. No, questo che dice hai perfettamente ragione, appunto, perché noi abbiamo questa iconografia classica di questo Babbo Natale che i cinesi riproducono in mille modi e magari molti non sanno che poi Babbo Natale può essere di diversi colori, ad esempio il vestito, questo forse lo sa. Ah, non è soltanto bianco e rosso? No, bianco e rosso è l'invenzione di una nota bevanda con le bollicine. Sì, vabbè, tanto, ma è talmente nota che si può anche dire. Ormai è la Coca-Cola. Furono le prime pubblicità della Coca-Cola che inventarono questo signore pacioccone. No, esatto, proprio dal 1816, del 1916, una cosa del genere, e viene portata avanti da tantissimo tempo, solo due anni, una quella degli orsi polari, ti ricordi, del 2000. Certo. Sembra. E quest'anno, ecco, neanche a farla apposta, non si è visto Babbo Natale, cioè un topolino vestito con un cappellino da Babbo Natale. Ma per questo noi, di fronte a questo ennesimo oltraggio in una delle figure più rassicuranti della nostra fanciullezza, oggi rivendichiamo la sua esistenza. Senti, tu hai organizzato anche un raduno mondiale del Babbo Natale, che oggi è domani, mi sembra. No, è domani e dopo domani. Dopo domani. A Roseto degli Abruzzi, non sono io l'organizzatore, io sono soltanto il mastro Babbo Natale, l'organizzazione è la Marastoni Production, e ne saremo tanti, tantissimi. Cioè vengono Babbo Natale da tutto il mondo a Roseto degli Abruzzi? Da tutto il mondo, principalmente dall'Italia, qualcuno sporadico dall'Oltralpe. Beh, non è che Babbo Natale ha problemi di spostamento, con la slitta ci mette un attimo. Questa è una delle domande che mi mettono sempre in crisi quando mi domandano i bambini: come fa Babbo Natale a portare i doni in tutto in una notte? Ma spieghiamoglio come fa. Riesce a fermare il tempo. Ma è semplicissimo, non c'è nulla. È semplicissimo, è un luogo di Colombo. Ma anche Harry Potter ha un piccolo ordigno che è una specie di orologino bussola con cui ferma il tempo quando deve fare delle cose. Se lo fa Harry Potter, che è arrivato da 3-4 anni, non può farlo Babbo Natale, che esiste da sempre. Da sempre. Lo sai da quanto tempo esiste Babbo Natale? No, sono qui per apprendere. Babbo Natale esiste dal tempo degli antichi romani, che c'era una festa, appunto, che si chiamava il Dies Natalis, dove era uso scambiarsi doni, principalmente dei cesti pieni di frutta. Senti, adesso siccome vorrei dare istruzioni pratiche, Sentiamo un attimo Fiorella, poi tu ci dirai esattamente, perché c'è proprio un training fatto anche di esercizi fisici di arrampicata per fare Babbo Natale. Fiorella, buongiorno. Buongiorno. Se fossero esistiti Babbi Natale appesi alle finestre, io non ci avrei mai creduto, penso. Ma lei ci crede tuttora, immagino. Assolutamente, spero. Sì. Ecco, no, diciamolo, perché sembra che quando si è adulti occorra per forza dire che non esiste Babbo Natale. Miei figli, che sono nell'età critica in cui cominciano ad avere qualche dubbio, mi guardano come per dire: papà, posso essere grande e dire che non esiste più? Dico: ma proprio adesso che sei grande è il momento che tu creda fortemente in tutti i miti che hai coltivato da ragazzo, sennò diventare adulti diventa una cosa tristissima. Assolutamente, era una magia. Io ho perso il papà che ero piccolina, eravamo tre fratelli, e la sera di Natale, il 24 alle 10, alle 9, perché poi quando si era piccoli allora si andava a letto alle 9, tutto era spento, non c'era assolutamente sentore di nulla. E si lasciava il piattino, naturalmente. Il piattino e le candeline erano di cera a quei tempi, e andavamo a letto che le candeline non erano mai state accese, e con la speranza che il Babbo Natale arrivasse, però non eravamo assolutamente sicuri. E a mezzanotte la mamma ci svegliava e la magia era tutte le candeline accese e i pacchi sotto l'albero. Mi emoziona ancora pensarci. Ecco, perché secondo lei noi crescendo ci neghiamo un'emozione del genere? Che sarebbe tanto semplice. Chiunque potrebbe organizzare qualcosa di simile. Perché noi da grandi possiamo credere a qualunque cosa, qualunque panzana, qualunque favola, qualunque cosa scritta sui giornali o detta dalla televisione. Io faccio il giornalista da anni e so esattamente quanto sia l'aspetto mitico, l'aspetto fittizio dietro il racconto quotidiano, le cronache quotidiane. Eppure ci crediamo volentieri, crediamo che esista un sondaggio in cui si capisce che gli italiani improvvisamente amano tutti quella tale attrice o quel tale uomo famoso e il più ambito compagno di fuga di tutte le massaie italiane, e via dicendo. Esiste tutta una particolare tecnica per dare visibilità e esistenza alle persone, fingendo che alcuni sondaggi li pongono al vertice di tutte le passioni. Ecco, a quello possiamo credere tranquillamente, fa parte dei rischi dell'essere adulti. Perché invece non si vuole rischiare nel credere nei miti? Ma io credo che purtroppo forse noi abbiamo, io almeno, ancora avuto la possibilità di credere a Babbo Natale, ma Babbo Natale adesso arriva tutti i giorni perché abbiamo la possibilità di averlo, di chiedere e avere, e allora non... Quindi giustamente lei dice oggi è inflazionato, abbiamo ucciso il mito di Babbo Natale, abbiamo ucciso le persone che l'hanno voluto uccidere, quelli come me che ci credono non hanno ucciso proprio nulla, proprio inflazionandolo, mettendolo attaccato alle case con il pupazzetto orrendo cinese, con quegli stivaloni brutti, disarmonico, poi sono disarticolati, molte volte quando vengono messi posti male in opera sembrano poverini delle marionette dissestate, sono grotteschi, sembrano dei cadaveri di impiccati più che Babbo Natale. Quindi l'abbiamo inflazionato, non essendo più unico il momento. È scomparsa la magia di quel momento, Fiorella? È scomparsa. I bambini, temo che, come fanno a credere a Babbo Natale? Se lo vedono lì appeso già da metà dicembre. Esattamente. Ma chi è Babbo Natale? Grazie Fiorella. Lino, velocemente, negli ultimi due minuti prima della pausa, cominciare a dare qualche istruzione per fare Babbo Natale. A dove si inizia? Dalla parte teorica o alla parte pratica? Noi iniziamo dalla parte teorica, poi facciamo ginnastica, facciamo dei balli, ci divertiremo. Senta, poi... il famoso grido di Babbo Natale l'ho insegnato. Io ricordo una bellissima puntata dei Simpson in cui Homer Simpson va a scuola di Babbo Natale. Imparava a fare Babbo Natale, cioè la famosa camminata e la famosa risata di Babbo Natale. Me la riesce a fare un attimo? Non posso farla prima di Natale, questo è il trucco. Siamo in una fase di apprendimento, come fosse un'aula. Vabbè, vi aspettiamo tutti domani, allora. Vabbè, lei sta facendo pubblicità alla sua manifestazione, lei deve dirmi l'urlo di Babbo Natale prima che vada la sigla. Va bene, lo facciamo, indubbiamente. Sono raffreddato, però. Viene meglio. Oh, oh, oh! Questo è l'ingresso di Babbo Natale con le sirene. Perfetto. Ridaremo fede anche a Simonetta che scrive sulla mia bacheca di Facebook: ma se esiste veramente Babbo Natale, perché non mi ha ancora portato un fidanzato? È la terza letterina che gli scrivo. Adesso tutti possono vedere il profilo di Simonetta e la foto di Simonetta sul mio profilo, e quindi sicuramente da qui a stasera, se il Tevere ci darà ancora vita e speranza, forse lei troverà il fidanzato. Stiamo parlando dell'esistenza di Babbo Natale, anzi della certezza che possa esistere Babbo Natale, anzi della convinzione che se per tutti esistesse Babbo Natale forse riusciremmo ad affrontare meglio queste giornate così piovose, così grigie e così meste nella nostra anima. E lo facciamo grazie a Lino Domizzi, che è un istruttore di Babbo Natale, che parteciperà domani e dopodomani al raduno, lui dice nazionale ma secondo me mondiale, di tutti i Babbo Natali, e che sta mettendo a punto un training importantissimo per diventare tutti Babbo Natale, ma perché ce ne sia soltanto uno e sia uguale per tutti. Allora, ci eravamo fermati alle istruzioni teoriche, ma vorrei sapere qualcosa più, Lino Domizzi, sull'aspetto fisico. Babbo Natale ha necessariamente bisogno di doti abbastanza atletico, minimamente deve sapersi muovere nei camini che non esistono più, ma nell'arrampicata notturna verso il luogo del deposito. E infatti, comunque noi abbiamo aperto le iscrizioni anche alle donne, è una cosa particolare. Sì, oddio, guardi, non voglio sembrare più arretrato le posizioni, ma io la babbo natalessa con le tette, sinceramente, ancora non sono pronto, ecco, probabilmente sarà spazio. Eppure nel 2006 è stata appunto votata, è stata eletta Miss Babbo Natale 2006, Babbo Natale dell'anno 2006, una donna. Sì, ma sono queste, secondo me, cedimenti al politicamente corretto, che devono averci le quote rosa anche sotto l'albero di Natale. Infatti hai ragione. Me la immagino la moglie di Babbo Natale, ma immagino lì nel Polo Nord che lo aiuta. Babbo Natale non è la Befana, No, assolutamente. Beh, Babbo Natale, scusate. Chiaro, Non attribuiamogli questa onta. La Befana è la sua antagonista. Perché poi ne parleremo, ma la Befana rispetto... No, non solo, ma perché venga accompagnato in queste manifestazioni sempre da bellissime babbe nataline, perciò non mi sembra il caso di cedere la Befana. Insomma. Cioè, Babbo Natale gli dà anche sotto come un disperato, diciamo. Vabbè, questo è giusto. Rafforza secondo me il mito e mantiene la possibilità che il mito possa perdurare anche nell'età adulta. Infatti. Cos'altro, quali altre sono le caratteristiche che deve avere un buon Babbo Natale? Allora, diciamo quello classico, via. Quello che serve, quello che porta i regali. Deve essere alto, ben robusto, una bella pancia, vera, possibilmente. E una bellissima barba. Quindi Babbo Natale innanzitutto non frequenta palestra e non pensa a farsi la tartaruga, diciamo, agli addominali. Che fa palestra gli ultimi giorni, proprio, sai, quelle cose. Ma il minimo indispensabile per entrare nel cammino. Vado la settimana prima in palestra. Guardi, che è anche una grande lezione di vita, che in realtà per avere successo e per essere considerati uomini attendibili e seducenti non occorre avere la tartaruga all'altezza del basso ventre, ecco. No, Dio ce ne guardi, figuriamoci. Infatti, io non so come lei fisicamente, ma... Ho un fisico invidiabile e scattante, ma che vuol dire? Sì. Non è che tutti possono averlo. Perché sei radio, indubbiamente. Certo. Ecco, benissimo. Ho scelto apposta. Terminato Babbo Natale, quindi, conclusione, dal punto di vista caratteriale, anche perché vedere quei Babbo Natali nei grandi magazzini che devono farsi la foto con i bambini uno dietro l'altro, si presuppone che debbano avere anche molta pazienza. Sì, tantissima. Io sono una persona che dal 3-4 dicembre quest'anno sino al 20, al 24 dicembre sera farò quello che lei ha detto. Beh, quindi abbiamo capito anche un altro motivo, e con questo ringraziamo Lino Domizzi, per cui Babbo Natale oggi è impopolare. Ha un fisico che non corrisponde agli standard estetici che vengono imposti dal grande meccanismo dei consumi di massa. Ha il ventre rilassato, ha le maniglie dell'amore, ha una grande pazienza naturalmente, e poi accetta di avere visibilità soltanto una volta l'anno. Ma guardate che è molto pericoloso disilludere i propri figli sull'esistenza del Babbo Natale. Lo fece qualche anno fa il padre di un noto attore di cinema, di teatro, di televisione, che è Alessandro Haber. Alessandro Haber racconta che era rimasto l'unico nella sua classe a credere ancora a Babbo Natale. E tutti gli amici, come accade ai miei figli, naturalmente, lo prendono in giro. Cioè, ma come, sei alle medie, ancora credi a Babbo Natale? I regali li portano i genitori. Sai, guarda, che furbo, che scoperta che hai fatto della vita. E Alessandro Haber, allora, fiducioso del racconto paterno, porta gli amichetti a casa dal papà, dice: papà, guarda, diglielo a questi che non capiscono niente che Babbo Natale esiste. Il padre infame invece disse: no, guarda, c'hanno ragione loro, non esiste. Fu un momento traumatico per Alessandro Haber, tanto che da allora, traumatico ma salvifico, da allora decise: bene, allora io da allora comincerò a mascherarmi, e quindi ha fatto l'attore con grande fortuna. Alessandro Haber quest'anno ha deciso di ritornare su questo suo ricordo e si è fatto da solo, in maniera del tutto artigianale, un video che ha messo su YouTube. Lui è vestito da Babbo Natale e rivendica l'esistenza e la dignità di Babbo Natale. È diventato uno dei video più cliccati in YouTube italiano. Ve ne facciamo ascoltare una parte. Popolo della rete, noi siamo il fronte di liberazione dei Babbi Natale di tutto il mondo. Provare per credere e credere per provare. Eccoci qua. Questi sono i Babbi Natale che ci rappresentano in tutto il mondo. Noi siamo molto incazzati. Incazzati è una parola povera per dire quanto siamo incazzati. Siamo di più. Non ne possiamo più di essere appesi sulle grondaie, sulle finestre, sui balconi, con questi striscioni, con questi catafasci, questi in mezzo alle bufere, alla neve, alla pioggia. Basta! Stiamo protestando, vogliamo un po' di dignità. Dov'è la dignità? L'abbiamo persa ormai. No, vedi, sono affranto, sono disperato. Immaginate il dolore, immaginate la necessità che ha avuto quest'uomo dopo 30, 40, 50 anni che si è tenuto questo magone dentro, del padre che lo ha tradito di fronte ai suoi amici, lo ha messo in ridicolo, di avere la possibilità, grazie a un mezzo di autoproduzione come quella di YouTube, di rivendicare l'unicità di Babbo Natale. Babbo Natale non può essere il punto di un politeismo massificato di tanti pezzi di plastica appesi ai balconi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Mi sente? Come li sento, la sto ascoltando con apprezzione, visto che lei dice che Babbo Natale è il bene che trionfa sul male. Sì, è certamente una ovvietà quello che dico. Vabbè, ma però se una cosa è ovvia non è detto che sia sbagliato dirla. Non si può pensare di discutere sulla nascita o sull'eventuale scomparsa di Babbo Natale, perché a mio avviso è il bene che sconfigge il male e la bontà che ha il sopravvento sulla cattiveria, e il tendere la mano all'altro e aiutarlo nei momenti di bisogno. E perché allora consideriamo, scusi, una crescita e un entrare nell'età della ragione il non credere più a Babbo Natale? Perché questo non l'ho sentito, io mi sono fermato in macchina. No, volevo dire, perché noi consideriamo esseri umani razionali e civilizzati un momento di crescita il non credere più a Babbo Natale? Io ho iniziato questa trasmissione rivendicando il fatto che Babbo Natale esista realmente. Ho sentito. Perché lo consideriamo? Perché è legato concettualmente alla figura di un soggetto che veniva non so da dove, e quindi con la crescita l'uomo ha capito che era era frutto di una fantasia, la materializzazione di quella bontà. Se invece noi andiamo a dare un volto a quella bontà, a quel comportamento, allora noi siamo portati a dire che essere buoni vuol dire essere Babbo Natale. Va bene. Nei confronti dell'altro. Auguri, e mi raccomando, tenga da conto le sue renne, perché oggi è una giornata piuttosto piovosa. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Dunque, ma io in realtà sono un mix, perché mia madre è veneta, quindi mi sono trovato Santa Lucia perché abbiamo sempre vissuto a Brescia, ma con delle reminiscenze di questo San Nicola del 6 dicembre, che però non abbiamo mai festeggiato perché ci veniva detto: guarda, che appena vieni in Lombardia qui c'è Santa Lucia. Poi sono sposato con una signora di Milano, questa donna, che lei, loro hanno in casa tutti il Babbo Natale. I miei figli ci fanno il trittico, perché io ho dei ricordi meravigliosi di questa emozione dell'attesa della notte di Santa Lucia. Vedevo la luce accesa lontana della camera dei giochi tutta la notte sotto le coperte, terrorizzato da questa figura che una volta mia zia, mi ricordo, l'aveva fatta con la candela, era anche caduta, una cosa ridicola. Beh, per me Santa Lucia e Babbo Natale e San Nicola esistono tuttora, e così è per i miei figli. E anzi, se mi venissero a portare di fronte ai loro amici che sostengono il contrario, direi: no, guarda, assolutamente, esistono tutti e tre e fanno cose bellissime. La cosa divertente di questi regali che facciamo, ecco, Babbo Natale è il regalo impacchettato, Santa Lucia, che è un po' anche l'incubo per i genitori, è il regalo montato. E vi assicuro che oggi passare la notte del 12 dicembre a montare quelle cose è da una parte pesantissimo, ma dall'altro poi la mattina è risultato. Cioè, se lei regala un galeone spagnolo fatto di 10.000 pezzi, deve passare la notte a montarlo. Bravissimo, è una cosa, cioè Santa Lucia non porta un pacco regalo, porta le cose, addirittura io ho ricordi di entrare nella camera dei giochi e vedere il trenino che gira con la pista delle macchinine, che tra l'altro non so se si ricorda la policy, aveva il pulsante che si schiacciava, mio padre doveva fare tutto un accrocchio. Da sola doveva chiudere il circuito per farla camminare, certo. Ma addirittura hanno fatto, lui e un suo amico ci hanno costruito, a me e mio fratello, in questa camera dei giochi, un appartamento in un condominio, una casa di legno, tagliando le assi di notte, e io e mio fratello non ci è mai venuto in mente di passare davanti a quella camera perché poteva esserci Santa Lucia. Beh, ieri mio figlio, 2 giorni fa, ha scritto una lettera a Santa Lucia appesa alla finestra, alla porta a casa, dicendo: per favore non suonare forte la campanella perché io mi spavento e poi non riesco più a dormire bene. Ecco, noi abbiamo fatto spesso trasmissioni in cui emerge che in realtà la perdita del rapporto di fiducia e di confidenza, della possibilità di avere insegnamenti e letture dell'esistenza da parte degli adolescenti nei confronti dei genitori, è drammaticamente il problema della contemporaneità. I genitori spiano i figli attraverso i loro sms, i genitori danno dei computer ai figli con cui è possibile espandersi, però nottetempo cercano di sorvegliarli. Ma perché? Perché hanno detto ai loro figli che non esiste più Babbo Natale, quindi hanno perso la possibilità di avere ancora un contatto con i loro figli, un contatto che riconosca radicalmente la loro figura di genitori. Ma questa è una mia folle lettura, non datemi retta. I Babbi Natali appesi ai balconi non sono poi brutti, sì, sono cose commerciali, però non dire incendiamogli, diamogli fuoco, sgonfiamoli. Guarda che poi tanta gente ti prende in parola, eh. Poi ritornano gli incendiari, ritornano i piromani e poi magari qualcuno ti dà la colpa. Sai, nel mondo dove viviamo oggi l'emulazione è una cosa pericolosa. Ancora buon Natale a tutti. Ma mi sembra un po' esagerato dire di bruciare quei Babbo Natale attaccati alle finestre. Mi sembra una cosa veramente esagerata, Nicolè. Buon Natale. Assomiglia un po' all'invocazione di Cecco Angiolieri: se fossi fuoco brucierei lo mondo. È una forma retorica, fantasmatica, immaginifica di dire bruciare con il fuoco significa togliersi in maniera violenta, rappresentativa ed epica dal proprio angolo di visuale qualcosa che ci irrita e ci infastidisce. Chiaramente non istigherei nemmeno a bruciare un cerino io, ma l'aspetto iconografico del Babbo Natale, il suo degrado proprio estetico, probabilmente è una delle ragioni più profonde della caduta dell'immaginario di Babbo Natale. Avete sentito dai racconti dei nostri ascoltatori che in realtà si va molto oltre. Qualcuno mi dice che in realtà bisognerebbe sottolineare il senso religioso della festa del Natale, ma condivido perfettamente che il Natale sia essenzialmente una festività di tipo religioso, ma però è fatta anche di tanti altri elementi. L'elemento della festa va oltre ogni possibile orientamento religioso. È un momento in cui il tempo del quotidiano finisce, termina o perlomeno presenta degli spiragli, si può uscire dal tempo consueto ed entrare nel tempo della festa, che è un tempo mitico, un tempo meraviglioso. Poi ognuno gli dà la connotazione che più reputa adeguata alla sua visione della vita. Comunicato numero 1 delle brigate di liberazione di Babbo Natale: armati di coltello libereremo il vecchio barbuto dai balconi capitalisti e dalle finestre plutocratiche. A proposito dei Babbi Natale appesi ai balconi, sono orrendi, sono i degni compagni dei nanetti in giardino, facciamoli fuori, ciao! Luigi Fuiano, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ha combinato in Facebook questi giorni? Insomma, ci è venuta questa idea, scorso, che diciamo, è stato il boom di questi Babbo Natale appesi in posizioni quasi anchilosate, in posizioni più strane e assurde, che si arrampicano sui tetti, sui balconi. Ora, essendo un po' icona trash secondo noi di questo Natale, l'anno scorso ci ha... Scusa un attimo, Luigi, la richiamiamo perché si sente malissimo, un peccato sentirla così. Rimetta giù il telefono, si metta in una posizione a concia, che la richiamiamo immediatamente, intanto sento Carlo. Carlo, buongiorno. Carlo? Eccolo qua, sta arrivando. Pronto? Eccolo Carlo, Natale molto sentito. La si aspettavano tutta la notte, adesso si chiede come facessero i nostri genitori a fare tutto. Ecco, qual è la domanda allora che si pone? No, la domanda che mi pongo è... Io ho un figlio che adesso compierà 14 anni a gennaio, la domanda che mi pongo è, io continuo a fargli tutto questo, e da noi è molto sentito anche San Nicolò, io sono di Bolzano, e San Nicolò è stato il 6 dicembre, la tradizione è il 5, la sera, e possibilmente avere la carta rossa in camera. Quindi il problema si pone, suo figlio 14enne ormai con la voce da tenore e i baffetti continua ancora a fargli i giochi di Natale, ma io direi io di sì. Continua a fargli i giochi di Natale, ma anche i giochi di San Nicolò. Ma io spererei che suo figlio possa apprezzare questo suo sforzo. Ma infatti l'ultimo San Nicolò, 10 giorni, la settimana scorsa, siamo tornati insieme a casa da judo, lui si allena in judo, e io ho fatto le scale di corsa, sono entrato in casa, sono riuscito a accendergli la luce in camera sua prima che lui entrasse, e c'era la luce rivestita della carta rossa. E lui è rimasto e ha fatto la stessa faccia che faceva quando aveva 4 anni, 5 anni, 6 anni. Ma io, guardi, alla venerabile età di 54 anni darei chissà che perché qualcuno ancora mi facesse queste cose. Quindi fa parte di una importante maniera di mantenere vivo il senso di una tradizione. E la tradizione serve che ogni anno dobbiamo ricordarci in quel fatale momento il tempo ha una piega diversa rispetto al tempo di tutti i giorni. E se noi non compiamo gli stessi atti, che sono un po' come un rituale, il tempo rimane rettilineo, non si entra mai nel tempo della festa e si è tristissimi, penso. Certo, ecco, ripeto, a me manca, perché a me adesso il sacchetto non lo fa più nessuno, però ogni sera, poi quando lui va a letto, un po' di magone arriva, cioè la sera del San Nicolò, Natale è diverso, perché il 24, rigorosamente mezzanotte, anche da me, la campanella con Stille Nacht... Ci deve essere, che siamo in due o che ci siano anche le mie sorelle, però l'importante è che... Ma secondo lei, scusi, bisogna porsi il problema che non lo faccia più nessuno e quindi non lo facciamo più neanche noi. Io penso sia un atto di grande trasgressione. Oggi la gente si spoglia nuda, va nelle piazze, manifesta su tutto, ma io nell'ambito delle proprie tradizioni familiari ognuno secondo me può continuare a fare ciò che vuole. Sì, nell'ambito delle proprie tradizioni familiari sì, però sarebbe bello tramandarle il più possibile. Ma lei lo sta facendo e noi stiamo cercando questa mattina di fare a nostro modo una maniera di tramandare qualcosa in cui noi crediamo fortemente. Abbiamo ripreso Luigi Fugliano. Luigi Fugliano ha creato un gruppo in Facebook legato ai Babbo Natale appesi. Esattamente, ciao. Adesso la sentiamo benissimo. E questa idea nasce l'anno scorso, che secondo me è stata... proprio l'espansione massima di questi Babbo Natale appesi sui nostri balconi in posizioni improbabili da anchilosi tipo medico. Ecco, ma il suo gruppo cosa propone di fare? Propone di liberare, di togliere questa icona trash del Natale e di toglierla dai balconi, perché un po' deturpano le città e un po' deturpano questa figura ormai mitica e mitologica, che sembra più un ladro che si... sta per entrare nell'appartamento piuttosto che il Babbo Natale. Ma infatti, vede, questo è il frutto di un meraviglioso processo, quello delle contaminazioni tra le culture, che amo molto, a me piace vedere gli esiti delle ibridazioni. Ma quando i cinesi sono trovati la necessità di dover vendere tanti Babbo Natali, li hanno fatti con la scaletta che salgono lungo la nostra finestra, perché si sono fermati all'osservazione retinica del fenomeno e dell'iconografia, senza pensare poi a tutto quello che hanno detto i nostri ascoltatori, che è un insieme di piccoli rituali quotidiani che si tramandano, che